Gatti di Toronto. Ehi, te pari, ue. Pronto? Ehi, te pari, ue. Ehi, te pari. Ehi, te pari. Non ho contato il nome so adesso, mamma mia. Non so, riesci a passare la corrente. Scappa. Ma quei cosa sono, quei piatti? Allora. Non so. Fatelo controllare. Non so così, hanno abbassato la potenza. Più di quello non va. E a volte quando non è pagato oppure se ne riscattano non capisco. Grazie a Dio ancora quello manca a pensarne. No, lo fanno perché c'è una manica di garogne e siccome non paghiamo puro. Cioè hanno abbassato, prima c'erano 3 kW e mezzo, ora hanno abbassato 2 kW. Troppo qua eravamo la scorsa eravamo quei giorni a casa tua. A casa tua? Abbiamo detto dopo quei giorni che non ho entrato in casa tua. Stavo dicendo, adesso le canzoni abbiamo cambiato tutto, capito? Ah, zitta! Frontare un televisore, chi? Aspetta, vado a risolverlo, dai! Vai, ok. Dai! Senti, senza ruzzi! Vabbè, riparatela. E cappa. E beh, come se poi si è rimesso a fare da solo, come ti è mancata la corrente? Non quanto. Così fa. Se ti è mancata la corrente, vuol dire che non fai. Ho già recupera, solo che ci mette un pochino a rimemorizzare. Cioè, a rimettersi a posto tutto qua. Non mi capisce, poi va nulla. No, è troppo una persona anziana. Non messo a posto, dai. Ma ti è sempre tua madre? Oh, mia nonna, Io ho sempre 9 anni, cioè. Già è molto che lo usa. Come fa il tuo padre? No, già si arrangia, è la verità, solo che un vedevo per qualche cosa non la capisce. Gestire bene. Ecco qua. Io. Negativo. Ora sta facendo cosa? Non è entrato l'apparato. Tu non già sarebbe entrato. A sentire la tua potenza. Gloria. Cosa, Leoncino? Una pompa. Oh, bene. tra mappa ti cadrie già tutto. lascia perdere. Vabbè, l'ho contato io adesso qua, dalla stagione, capito? Vabbè, io stavo parlando di apparecchi con la modifica, stiamo parlando. Allora, sono apparecchi che sono un pochettino strani, cioè devi sapere attivare la modifica, capito? Cioè, perché magari lo stai, lo riaccendi e no, sembra che sia normale, hai capito? Faccio fare cambiare la scheda, questa cosa e modificare la scheda. Ma non lo sanno fare tutti, poi ci vogliono apparecchi adatti, ci vogliono, cioè non tutti gli apparecchi vanno, perché è particolare, dai, è inutile che... Da poi fare un apparecchio costa anche un bel po' di soldi, Non lo so, come va a finire la questione con il capo del contratto, buongiorno, me lo vediamo un po', io la piazza la prendo, poi la palla del culo e poi è stato chiamato dalla sottoposta, sono qua, capito? Va, prima di tutto ti muni a posto. Ti metti a posto e poi agisci di conseguenza. Aspetta che ci finisca l'anno, poi prendi, vai, tanto non costa un cazzo, vai, ti prendi il modulo e via. Io il modulo ce l'ho, però mi ha comprato, tanto mi ha fatto tutto qua. Pagato il bollettino. Il bollettino l'hai pagato. Ora sei a posto. No, la fotocopia, io l'ho scritto per autovettura, è attaccata, capito? Uno che è pagato viso, sei a posto. Cosa faccio adesso? Adesso io sto facendo qua. Come mi dà l'occhio di potermi portare la tema? Se ne è comprato. Se ne è comprato. E poi va, non si voleva credere, io vado al posto e faccio la querela, capito? Tra la novità dici di conseguenza. Adesso che antenna vuoi mettere? Adesso io voglio mettere una gran fretta. Per me non mettere la Gran Pre preferisco più la Ringo, ti dico sinceramente, guarda. Ringo? Va. Prendete più grande. È più grande e poi anche più forte. I dB di guadagno sono superiori a una Gran Pre e spara di più. Vabbè, ma nel fondo dove c'è la Roma per io. Io posso sul tetto non posso salire, capito? Non posso salire sul tetto, non posso andare aerea, capito? Ma è un tubo, non è niente, non ha radiale, non ha nulla. È un tubo? Fa. Come c'è presente la mantova? È solo, tu guarda, solo lo stilo centrale della mantova senza radiale, così è. Ho capito. Quindi a fare il prezzo, dice, a qualità del prezzo, guarda, ti consiglio la Ringo. Io l'ho provata, questa è una gallonata. Quanto viene il prezzo, lo sai? Guarda, non mi ricordo mai, costa 38 euro. Ma quanti metri è? Sì, pare che sia 5 metri, se non mi ricordo male. 5 metri? Tutto per che staffe ci vogliono, lo sai? No, penso che un paio di staffe un pochettino robuste, va bene. E dopo la vengono per la risposta? Giuliano sarà? Proprio lui, la Lem, Fusaro. Ma non lo so, 40 euro quando va a io se telefonami. Di guadagno Chuck, per qualità e prezzo preferirei più quella. Sì. Io ho provato a disobbedire, cazzo, una bomba. Quindi ho lanciato la bambugiana, l'ho preso guadagno e ho fatto il diplomato nuovo, capito? Come Dio comanda, capito, non voi. Quindi, se puoi dire se te la contate della Gran Prima, almeno qualità e prezzo, guarda, conviene quella. Una persona so che ce l'ha messa, che tu sia un bel fosse. Ho capito. Adesso vediamo, non questi giorni, devono entrare questi giorni, devono pagare ancora. Le giornate che ho fatto e... come entro in questi giorni vado a pigiare una pedola da tanto per guardare in fronte al corridiano. E montare. E montare. Diciamo, devo fare punti qua nel muro, capito? Ho paura che c'è anche la spirale. C'è la spirale? Spirale, quello come la manto qua. Questo qua è un punto maledetto, per forza qua io la devo far mettere dove scende l'acqua, capito? Nella canaletta dove scende l'acqua. Certo, ma te la ricordi la mappa qua? Io me la ricordo, ce l'avevo già fatta. Ciao, c'è quella spirale, quello lì c'era la stessa, un pochettino diverso il sistema, devi attaccare il filo, devi attaccare. Poi per misurare stazionare non me lo ricordo bene. Già faccio tutto quanto con il cliente qua, adesso vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Sapetta. Sapetta. Sapetta. Sapetta. Che fine ha fatto? Un pochettino vedrai già nemmeno. Tipo bidonaro. Bidonaro? Bidonaro. Pompone. Io ti ho detto fra un po' entra già. Bidonaro, ecco, sono 5 giorni che sto pensando adesso con Pompone per fare questa cosa qua e non si fa che niente. Ma adesso Pompone già lo so io per farti sentire cosa ci vuole. Poi non è che ne arrivi corrente. E come ne arriva correndo? Sì, già lo si può immaginare. Quando c'è il giusto in mano, e vedi come arriva. Sì, bravo. Lui ha scelto questa scena che ha costruito lui con una canapetta, ma a tante, capito? Non è proprio il costruttore bene bene bene, capito? Ma però non è male. Ma so che non è male, però... vuole piazzata bene, con un tubo e al piazzatopo, capito, con questi soldi qua. Ma se hai deciso di fare tutto quanto nuovo qua, c'è stato il capo nuovo, tutto quanto, con l'amico, poi ce lo faccio vedere io come è questo qua. E già non lo posso immaginare. Faccio come avevo in campagna, capito, eravamo qua 5. Però avevo un apparecchio di comanda, adesso avevo cosa là, un baracchino grande, la chiesa. Ma guarda, io dico una cosa, l'antenna può essere anche non tanto esagerata, ma quello che conta è un'altra cosa, la sostanza. L'apparecchio e poi pure un altro cosettino. No, la bambina, la capita, troppo. Quello che conta è la sostanza. Se ti metto anche una storma con un'antenna da un metro, cioè, la monto e ti posso vedere che ci porta in una testa. Vediamo un po' cosa è poi la bambina, io quando ho incominciato a riscaldare con la pentola, si vede fare la potenza e poi vediamo che si mette come Claudio. Chiappa. Allora io sono un pochettino amante di quegli affarini, ho la cittura a usare e mi dà meglio l'elenco che sarà sicuramente per continuare a poco presto da modificare. No, lascia perdere, mamma mia, mi ha fatto un caro di sangue, gatti. Non stiamo prendendo più niente noi. Ma certo che gli ordiniamo noi, da tecnocomunicazione. Tecnocomunicazioni da Milano. Chiappa. Io lo compro questo qua, l'ho comprato lì per esempio. Oh, il cartolino, guarda, è una cosa. Fuggiare non è. Se io ce li ama, ti faccio pagare che sangue. Ma io ho detto che è pronto, l'evento, capisci? Sarà qui. Non ho detto che devo prendere appunto la lui, capisci? Per vedere un po'. Ah, capo. Proviamo amici, se vogliamo fare il cambio, capito? Ho comprato questo, ma è una bomboletta. Cos'è il tuo passaggio? Non ricordo. Che baracchino c'hai? 550 power. Ma è grande. Non è grande. Oppure normale? C'ha l'eco dal piede della casa, il microfono non è applicato, è dalla Intec proprio questo qua, è originale. E c'ha il beep e il filtro, e poi c'è canali da. Vediamo un po' perché questo poi dovrebbe essere trasferito in mare, capito? Questo qua non mi posso lamentare per niente di questo apparecchio, c'è anche fino alla MOSFET che c'ha di nuova generazione, mi subisce questo qua. Non è grandissimo ma è piccolo, però c'è anche il watt, dai, e va bene, e per mettere i canali non è come quelli che hai sempre visto tu, è un po' particolare perché hai codici, però va bene. Ma questo che sto io qua, non è a manuale, capito, è elettronico, capito, elettronico, capito. E c'è il smitter, cosa? Solo i canali elettronici, capito? Ah, questo qua c'è anche l'up-down. Questo sta, allora, si stampa 19, si stampa 9 e poi normale, capito? E qua c'è anche il compressore di modulazione. No, questo fa pesca. Vabbè, se pensiamo per esempio questo qua, la modulazione è stata fortissima. Questo l'ha controllato Alessio con pugno e l'ha portato a 7, capito? Pure l'inversione di polarità. Però non c'è sempre un punto basso, capito? Ma io la metto un 5 grado. Lo so che è molto. Non è molto. Almeno 30 watt. Oh, è lì che 12 watt dalla casa. Quanto l'ha portato qui? 12 dalla casa. 12 dalla casa? Ah. E tu la puoi le trasformare? Io come l'ho comprato non ho trasformato nulla. Dovrebbe salirne adesso, fra un pochino. Vabbè, comunque, se il totale, già io rimango qua nel 21, poi alle 8 me lo faccio il caffè, sarà, devo portare il bambino a il caffè con mia madre, e poi entro qua. Stai uscendo adesso? Non puoi, piccolino, sei di casa. Stai diventando un grandetto, Vabbè, il padre è a 44, fa il conto. È un grandetto, no? Vabbè, capisco. Sto qua, capisco. Non dormi, e dormi a sua mamma. Non dormi da la madre, tu dormi da sua mamma? Vabbè, ho capito. Purtroppo sono cose che succedono, là. Non so, purtroppo. E già, per carità. Già, non c'è già la tua. Meno male che sei una persona calma, secondo me. Una persona calma. Chi è la persona calma? Quando mi sono separato, sono arrivato più tranquillo, sono più calmo. Guarda che c'era nessuno, prima era un certo tipo arrato. Rosa. Cosa ha detto? Imbarrato. Cosa ha detto? Imbarrato. Cosa ha detto? Imbarrato. Non l'ho detto io. Cosa ha detto? Focato. Ha detto... Ma se tu mi accomodi, già non fa arrabbiare. Adesso io, da quando sono separato, sono stato più tranquillo, capito? Faccio la bravo e tutto quanto. Sono sempre afferrato. Ah? Sono sempre afferrato, come ti vuoi dire. È sempre nervoso, è la preoccupazione della famiglia, tua, pupa. Quello che penso non posso a respirare e allora per dire una cosa aiuto prima le cappelle di bosso ti danno il bugnone e anche però vabbè sono cose che succedono vabbè poi stavo un pochettino rompendo le scatole eccetera vabbè ma tu e non c'è che se questo sono giusto, deve andare tranquillo con la sua famiglia, con la sua moglie, e qui, però deve stare tranquillo, però deve sicuro essere nato, da voi. Ecco pure, a 2 minuti dal terminato, questo vento già una presa. È normale, ti capisco. Come sai che è successo quando sei a casa tua, tanto c'è una cosa che non va bene, con tutti i casi. Io lo credo già. Grazie a Dio che tua mamma ancora. Madonna deve essere. Buon divertimento e la ricerca è un tutto quanto domani, dai. Ciao.